Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Giulia Esposito di Lab 80 Film per parlare del film The Bra, il reggipesto di Veit Helmer, al cinema da giovedì 14 novembre 2019. Giulia, ben trovata. Grazie mille. The Bra è un film scritto e diretto da Veit Helmer, regista tedesco, è ambientato in Azerbaijan e ha un cast internazionale. La vicenda è quella di un macchinista solitario che sta per avviarsi alla pensione e si trova ad affrontare la prospettiva di una solitudine, e nell'ultimo viaggio con il suo treno, nel suo passaggio quotidiano in questo villaggio dove il treno passa praticamente vicinissimo alle case, il quartiere stesso ha una vita che si svolge su questi binari, rimangono spesso incastrati degli oggetti, e in quest'ultimo viaggio rimane incastrato un reggiseno, per l'appunto. Questo diventa un po' il pretesto per il protagonista adattarsi in una ricerca della proprietaria, che è una ricerca pur di sfuggire alla solitudine, una ricerca di amore, una ricerca di senso, un senso dell'esistenza. In realtà una delle cose molto curiose di questa storia è che è stata ispirata da un luogo reale, che è questo quartiere Shanghai alla periferia di Baku in Azerbaijan, dove proprio esisteva questa situazione di un treno che passava vicinissimo alle case, e questo quartiere che era un luogo di aggregazione molto forte, ma appunto con questa caratteristica quasi assurda, e ha dato al regista l'idea di ambientare qui una storia. Oltretutto il quartiere è stato poco dopo le riprese demolito, e perciò si rimane anche una testimonianza unica di questo luogo e della sua storia. Questa è a grandi linee la presentazione del film. Tra l'altro non c'è solamente questo piccolo quartiere, c'è anche un paesino di montagna. Sì, esatto. Le riprese poi sono state fatte appunto in parte in Azerbaijan, in parte in Georgia. Sono tutti luoghi dal fascino proprio visivo molto forte e anche insolito per un'ambientazione cinematografica, insomma, almeno per quanto riguarda la nostra abitudine. L'altra cosa molto particolare del film, ovviamente, è il fatto che questo film è senza dialoghi. È stato proprio concepito come film senza bisogno di parlato. Non è chiaramente un film muto, è un film con il sonoro, dove anzi hanno una grande importanza i suoni e la colonna sonora anche di Cyril Morin, sono molto importanti, molto curati ed espressivi, così come sono espressivi gli attori e la recitazione in questo film. Tra l'altro, ecco, dicevi della colonna sonora dello stesso autore, sono andato poi, siccome mi ha colpito, a controllare lo stesso di Samsara, ad esempio. Esattamente, sì. Ed è una colonna sonora molto particolare. In realtà in questo caso le musiche più contestualizzate geograficamente sono delle registrazioni radiofoniche di canzoni datate dell'Azerbaijan, ma le musiche composte appositamente per il film sono musiche molto rivolte a sottolineare l'aspetto delle emozioni dei personaggi che di volta in volta incontriamo. Dicevi della particolarità dei luoghi, è un'ambientazione esteticamente molto bella e fuori dal tempo, sembra una periferia del Novecento in qualunque provincia del mondo. Proprio così, è un luogo sospeso nel tempo, difficile da collocare, e l'atmosfera è sicuramente appunto sospesa e anche surreale. anche assurda, se vogliamo, e questo, tutto questo concorre a dare un'impressione generale di una fiaba, una vera e propria fiaba, quindi un regno dell'immaginario fantastico che cita sicuramente le fiabe. Per esempio la storia stessa ricorda chiaramente la fiaba di Cenerentola, e moltissimo anche è un omaggio al cinema muto, non solo il cinema muto in sé, come per esempio può essere il cinema di Chaplin, ma anche un cinema senza dialoghi, come quello che è quello di Jacques Tati. È un modo di intendere proprio l'opera filmica nella sua purezza di linguaggio cinematografico. Uno degli aspetti in comune è sicuramente il fatto di ricostruire queste situazioni che hanno una comicità sicuramente, ma che sotto sotto racchiudono anche una malinconia e dei temi profondi universali nell'esistenza. Quindi sì, questa è l'atmosfera sospesa che permea tutta la storia e tutto il film, anche visivamente. Dal momento che il film è stato girato in analogico con lenti anamorfiche in pellicola 35 mm e anche in fase di post produzione, poi il film è distribuito in digitale, però è stato ricreato un po' l'effetto della proiezione di una pellicola, di una vecchia pellicola, quindi c'è anche questa, un po' questa aura, questa patina vintage, se vogliamo, un po' così, un po' magica. Di questo regista, di Helmer, cosa sappiamo? Helmer è un regista che ha molto affetto proprio per questo modo di fare cinema, quindi di concepire un film senza il bisogno di dialoghi. Infatti sempre in Azerbaigian aveva girato Absurdistan, che è pressoché anche quello pressoché senza dialoghi. Ha girato il film Tuvalu. Sono tutti, dove tra l'altro rivediamo anche diversi componenti del cast di Debra, come per esempio Denis Lavan, Maya Morgenstern anche. In generale la sua visione del cinema è proprio questa, di cercare un linguaggio puro, quindi un lavoro molto accurato e molto complesso di scrittura che ci sta dietro, e poi sicuramente un grande divertimento e energia. C'è sempre questa atmosfera, questa estetica e anche questa atmosfera un po' dell'assurdo, e così come dicono anche i titoli stessi. In quante sale? In molte sale dall'uscita, saremo a Milano, tra l'altro ci sarà un incontro virtuale con Vetelmer a Milano il 14, saremo a Torino, a Napoli, a Brescia, a Bologna, a Roma con il Cinese Tour. Insomma, c'è una grande lista di sale che spero anche andrà ad accrescersi nei prossimi giorni, e che può essere consultata sul nostro sito e sui nostri social. Debra, il reggipetto di Veit Helmer al cinema da giovedì 14 novembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Giulia Esposito di Lab 80 Film che lo distribuisce. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto, un abbraccio. Con Fabrizio Ferrari, direttore artistico della 18ª edizione del Rome Independent Film Festival a Roma, Nuovo Cinema Aquila, dal 15 al 22 novembre 2019. Fabrizio, ben trovato. Ciao, ben trovati a tutti. Descriviamolo, questo festival, per chi ci ascolta e non lo conoscesse. Insomma, siamo ormai alla 18ª edizione, è un festival di cinema internazionale che si rivolge a film indipendenti, quindi film che non hanno ancora avuto una distribuzione, e in particolare per quanto riguarda i lungometraggi selezioniamo solo opere prime e seconde, e poi ci sono ben 10 sezioni, tra cui ecco, i documentari italiani e internazionali, cortometraggi, corsi di animazione, corsi dalle scuole di cinema, quindi in totale abbiamo quest'anno circa 100 film in concorso. Come saranno strutturate le giornate? Dunque abbiamo 7 giorni di

perché è in Italia. E quindi io cerco di valorizzare una serie di sensibilità italiane, per esempio la memoria, per esempio l'emigrazione italiana, la presenza ebrea in America Latina, la letteratura. E quindi non mi fermo solo alle opere recenti che si realizzano nel continente latinoamericano, oppure nell'altro occidente, come lo chiamo io, ma pensa alla memoria, pensa nel campo della letteratura, alle trasposizioni cinematografiche dei classici della letteratura, indipendentemente dell'anno in cui è stata fatta la trasposizione. Insomma, è un cibo che attira i docenti universitari. Quest'anno abbiamo una cosa molto particolare. Al Museo della Memoria Ebraica a Trieste facciamo un'intera giornata di memoria della presenza ebrea in America Latina. Lo facciamo dalle 10 del mattino fino alle 10 di sera. Sono lungometraggi e documentari che raccontano, come noi lo raccontiamo nel titolo, Shalom, il sentiero ebraico in America Latina. Diamo l'idea e rompiamo stereotipi, rompiamo luoghi comuni che si vogliono da una parte o dall'altra. No, noi siamo solo Europa trapiantata dall'altra parte, oltre Atlantico, no? E quindi questo genera una serie di curiosità, motivo di studi. Infatti noi abbiamo in questi anni sottoscritto convenzioni con 8 università. Da quest'anno per la prima volta un Ateneo del Sud, quello di Salerno, perché il resto è tutto della Padania, no? Cioè Trieste, Udine, Padova, Venezia, architettura, Bologna, no? E adesso andiamo oltre il Po e finiamo nell'Università di Salerno, che avrà anche una docente nella giuria ufficiale quest'anno. Insomma, è un'esperienza molto anomala, che richiama studiosi, richiama molto le sfere universitarie per quello che proponiamo, per quello che riscattiamo. E il mondo ebreo. Il mondo ebreo a partire di una vicenda storica che non conoscono in realtà, cioè cosa hanno vissuto gli ebrei e per in che momento e per quali ragioni sono approdati in quello che noi chiamiamo America Latina. Quante opere saranno presentate in questa edizione? Sono circa 90 film, di cui una settantina sottotitolati in italiano, grazie appunto a queste convenzioni con le università, perché noi formiamo i ragazzi che imparano a sottotitolare in digitale, no? Lo facciamo a Udine, lo facciamo a Trieste, tra poco lo faremo anche altrove, su richiesta delle università. E quindi offrire agli studenti un altro strumento nel momento in cui si laureano e devono entrare nel mercato del lavoro, che non è per niente facile, e che noi in qualche modo, dando a loro una formazione maggiore, speriamo che rimangano in Italia. Perché in questo paese il problema maggiore non sono coloro che arrivano, ma coloro che vanno via. Perché colui che va via oggi dall'Italia non va via con la valigia di cartone come una volta, ma va via con un cartone che è una laurea. Quindi è una sconfitta per questo paese. 2,5 milioni di italiani giovani andati via negli ultimi 10 anni è una enorme sconfitta, è un arretrare che la massa non è cosciente, perché la massa spesso è ignorante, nel senso che ignora, che non conosce, non nel senso offensivo. E non conoscendo non ha idea della dimensione della tragedia che c'è, del pedaggio che paga, perché tutta quella gente che va via è stata finanziata dalle tasse della gente, dovrebbe rimanere, ma se non ha prospettive ovviamente va via. In chiusura ci dai tutti i riferimenti per saperne di più sulla programmazione? Si inaugura il centro di fisica teorica dell'UNESCO sulla costiera di Miramare, no? Alle 20.05, e le abbiamo messo 20.05 per rispetto alla comunità ebraica, perché hanno quest'anno un spazio molto importante nel festival, che è un obiettivo per loro, no? Inauguriamo con un film sulla Bossa Nova. È curioso, perché il Brasile, e nel Brasile in questo periodo arrivano solo notizie negative, un presidente misogino, un presidente intollerante, un presidente che non rispetta l'ambiente, un presidente che mette in pericolo, no, come dire, quello che respiriamo ogni giorno. Però c'è anche l'altro Brasile, c'è il Brasile che sogna, il Brasile che crea, il Brasile che aspira ad essere felice. E allora noi a quel Brasile gli offriamo uno spazio importante attraverso il genere musicale che ha dato coesione e identità a un'intera nazione di quasi 200 milioni di persone. Domenica sarà tutto al Museo Ebraico. Da lunedì in poi tutte le sezioni competitive partono al Cinema Teatro Miela di Trieste dalle 11 del mattino fino a mezzanotte. Da mercoledì a venerdì c'è una sezione nuova che è pensata per gli Atenei. E quindi c'è una giuria solo di Atenei, di docenti universitari e di editori di case che pubblicano libri di narrativa e di poesia e di saggistica latinoamericana in Italia. Si chiama Cinema e Letteratura e è una sessione competitiva tra lungometraggi e documentari, e appunto la giuria è composta da docenti e da editori. È una sezione nuova che riempie molto di soddisfazione, perché così siamo coerenti con la volontà nostra di poter formare. Poi la cerimonia di premiazione sabato prossimo al Miela alle 20:30 e domenica 17 in programma tutti i film premiati delle diverse giurie. Quindi è un programma molto vasto con tantissimi film, con delle novità, come sono queste sezioni che abbiamo creato, perché anche la sezione sul cinema ebreo è competitiva, la comunità ebraica ha creato una propria giuria che giudicherà i film. Insomma, ci rinnoviamo con difficoltà, perché non è che abbiamo molti mezzi a disposizione, però abbiamo un staff meraviglioso, competente, serio, rigoroso, fatto da gente giovanissima, spesso appena laureati nelle diverse università del Nord-Est. Allora ricordiamo la 34esima edizione del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste dal 9 al 17 novembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Rodrigo Diaz. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi, grazie per lo spazio che ci avete riservato. Buona giornata. Il regista palestinese Rifat Audeh, intervistato da Radio Onda Rossa sul suo documentario The Truth, Lost at Sea, in tour in Italia. Questa presentazione del tuo film, Rafit, è portata qui in Italia dall'associazione Eulaia. Volevamo appunto chiederti com'è nata questa idea, che tappe farà, e poi entriamo nel merito appunto di com'è nato questo film, dell'esperienza di Rafit sulla Freedom Flottiglia e del perché tanto tempo, insomma, prima dell'uscita di questo film. Ok, buonasera a tutti. In realtà questa iniziativa nasce dal collettivo studentesco NUR dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha aiutato anche proprio per la venuta qui di Rifat. Da lì è stato, proprio dal comitato studentesco, irradiato in diverse università. Infatti il tour è nazionale, toccherà Roma, toccherà Torino, Venezia, Padova, Bologna e poi di nuovo a Roma in quattro iniziative di cui vi dirò dopo. Rifat arriva dal Canada e presenta il suo film multipremiato, tra l'altro, come avrete modo di dire dopo, di farlo dire a lui stesso, che è meglio. Noi lo daremo qui a Roma il 20 di novembre all'Accademia Belle Arti, il 21 all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, il 22 e il 23 saremo a Napoli e il 24 di nuovo a Roma all'Infernotto con la Fondazione La Rossa Primavera. Queste le nostre tappe a Roma. Ed entriamo subito nel vivo, chiedendo come nasce questo film. Insomma, dicevamo, dalla tua esperienza del 2010 sulla Freedom Flottiglia, 7 anni dopo nasce questa ricerca di verità perduta in mare. Questo film parte con la sua esperienza sulla Freedom Flotilla, che è nel 2010, ma lui avrebbe voluto prepararlo già nel 2011, ma per ragioni che non sono dipese da lui, alla fine ha dovuto concluderlo nel 2017. Da quando ho fatto questo film è stato in più di 25 film festival in maniera internazionale, ha avuto anche qualche riconoscimento. Il film si occupa dell'attacco israeliano alla Freedom Flotilla, ma si occupa anche della propaganda israeliana dopo l'attacco. Entriamo direttamente invece dentro i temi che affronti nel film, come l'hai costruito, il materiale che hai usato. Il film inizia proprio con la preparazione del viaggio, con l'inizio del viaggio. E poi prosegue con l'atmosfera durante il viaggio e con l'attacco, quindi sono proprio le riprese di cosa avviene durante l'attacco israeliano alla nave. E invece la seconda metà del film è tutta quanta sulla propaganda, soprattutto sulla propaganda israeliana sulle testate occidentali. Ci dicevi che ha ricevuto alcuni premi internazionali, ma quello che ti volevo chiedere è stato anche presentato, insomma, in situazioni pubbliche, come è stato accolto quando l'hai presentato, insomma, tra la gente, diciamo, non dentro i festival? A parte i festival, è stato anche proiettato in situazioni più comunitarie nel Medio Oriente, in Europa e anche negli Stati Uniti e in Canada. E questo è stato proiettato anche in situazioni diverse, quindi da università a chiese, moschee, ha detto qualche spazi pubblici, grazie, e in genere l'accoglienza è stata positiva. Praticamente in tutti i casi dopo la proiezione c'è una discussione, domande e risposte, e a volte invece sono io a fare le domande quando li vedo più timidi. In genere una delle domande che faccio dopo la proiezione è: hai imparato qualcosa da questo film? E in genere la risposta è sì, queste sono le due risposte più frequenti, o sì, abbiamo imparato qualcosa di nuovo, o è tutto quanto nuovo quello che abbiamo visto in questo film, no, per noi. E quindi io credo che ha avuto un impatto positivo nel migliorare la consapevolezza delle persone. E invece appunto proprio perché lo usi anche per raccontare come viene raccontata l'occupazione, la tragedia del popolo palestinese, i tanti morti quotidiani dai mass media canadesi, insomma, dove tu abiti. Penso che in generale i media dell'Occidente non coprano la questione palestinese come dovrebbe essere coperta. Quindi spero che questo film aiuti a riempire un gap che c'è in questo momento sulla narrazione. Racconto velocemente una cosa. Quando ero piccolo io abitavo in Canada e mi trasferì in Giordania quando avevo 10 anni, e quello che mi colpì molto, anche se avevo soltanto 10 anni, è come i media coprivano in modo differente, i media canadesi dai media in Giordania, quella che era la questione palestinese. E mi resi conto, appunto, vedendo le notizie in Giordania, che in Palestina quasi ogni giorno succedeva qualcosa di terribile. Ma questo non lo vedevo mai nei media in Canada, e è quello che mi ha cominciato a far riflettere, anche se ero così giovane, sui media. Adesso secondo me la situazione è migliorata in tutto il mondo grazie a internet e ai siti di notizie alternativi, ma credo che ci sia bisogno di fare ancora molto, perché i media mainstream seguono la loro linea e la loro policy quando si tratta di coprire notizie dalla Palestina. In Canada c'è una forte presenza, c'è una forte comunità palestinese? Sì, c'è una presenza abbastanza grande, soprattutto nelle grandi città come Toronto e Mississauga, scusate, non so come è italianizzato, soprattutto appunto in queste aree un po' più grandi. C'è una partecipazione, ci sono iniziative, mobilitazioni, e in particolare, ad esempio, come viene vista il BDS, il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele? Sì, ci sono delle mobilitazioni in solidarietà della Palestina, e queste avvengono non soltanto all'interno della comunità palestinese, ma anche all'esterno, anche tutte quante quelle persone che si muovono per i diritti umani, possiamo dire una larga parte dell'associazionismo che appunto che fa attivismo, comunque quando parla di diritti umani parla anche di Palestina. Credo però che la comunità palestinese in Canada potrebbe muoversi meglio per avere un più ruolo di guida e di indirizzamento rispetto a queste mobilitazioni. Riguardo il BDS, che appunto, come sappiamo, è un movimento globale e hanno quindi anche una presenza in Canada. E quello che mi sorprende di questo movimento, allora, questo movimento è un movimento non violento che appunto cerca di mettere pressione ad Israele affinché si prenda responsabilità rispetto alla questione dei diritti umani. E il punto chiave è proprio che il BDS è un movimento non violento. E nonostante sia un movimento non violento, gli attivisti BDS, adesso per gli attivisti BDS è vietato entrare in Palestina. Scusate, io sto traducendo peaceful con non violento, che non è esattamente una traduzione, sì, non è letterale, però insomma rende più l'idea di quello di come lo intendiamo in Italia. Quello che Israele si rivendica è sempre di essere contro la violenza, contro il terrorismo, questo è quello che dice. Però quando poi dopo si trova davanti un movimento pacifico come il movimento BDS, attacca e impedisce agli attivisti BDS di entrare in Palestina. Quindi perché? E io credo che Israele fallirà nella sua lotta contro il BDS perché il movimento BDS sta diventando sempre più forte nel corso degli anni. Anche negli Stati Uniti sono presenti mobilitazioni, c'è un legame con le comunità palestinesi canadesi? Dicevi che avevi girato un po' tutte le parti del mondo, quindi ti volevo chiedere se questo lavoro sui media riguarda il Canada, ma riguarda anche gli Stati Uniti, per esempio, per parlare del mondo occidentale o comunque del Nord America. Mi piacerebbe che questo documentario, che il mio lavoro, potesse indirizzare sia anche al di fuori del Nord America e del Canada, anche se mi rendo conto che il fatto che utilizzo la lingua inglese non permette a tutti appunto di fruire del mio lavoro, e anche le cose da cui prendo spunto sono tendenzialmente scritti in lingua inglese. Però il mio film ha avuto molto successo quando è stato tradotto in varie lingue, con l'aiuto di altre persone che appunto parlavano quelle lingue. Alcune di queste traduzioni sono state fatte in francese, in spagnolo, in portoghese, in italiano, in turco e in arabo ovviamente. E sto lavorando in questo momento a un altro paio di traduzioni. E alcuni dei festival in cui è stato presentato sono festival che si sono tenuti in Latino America o in varie parti d'Europa. E proprio ieri ho ricevuto una mail in cui mi si chiedeva il permesso di poter proiettare questo film a Gaza, e questa proiezione avverrà questo mese proprio in contemporanea a quella che avverrà qui in Italia. Questo film praticamente sta circolando adesso per l'Italia, ma è molto vicina anche la scadenza, perché dobbiamo ricordare magari a chi ascolta questa radio se l'è dimenticato, però dopo l'attacco alla nave Marmara, le isole Comore, proprietarie della nave, provarono a intentare una causa internazionale nei confronti di Israele per un attacco che fu vera e propria pirateria, perché era fuori delle acque internazionali. Respinto tutta questa premessa, perché poi però a brevissimo sempre respinta, insomma, questa richiesta di imputazione di Israele di fronte al Tribunale Internazionale dell'AIA, c'è invece una piccola apertura, per cui il 2 o 3 dicembre mi sembra che dovrebbe esserci una pronuncia, non so bene che, quindi chiedo insomma anche ovviamente all'associazione che lo sta portando in giro, quindi promuovendo questa campagna anche per avere giustizia dopo 9 lunghi anni. Cosa sta cambiando? È stato un percorso lungo anche dal punto di vista legale da quando è successo quell'attacco. Comunque non possiamo perdere speranza, non importa cosa succeda, perché è la prima volta nella storia del Tribunale Internazionale, è la prima volta che al procuratore, cioè che quello diciamo, che fa l'accusa, viene detto molte volte di riconsiderare l'apertura del processo, cioè di ripensarci, e già questo insomma ci dà una speranza. A parte le azioni legali, in aggiunta a queste stiamo anche facendo azioni in altri contesti, tra cui in Sudafrica. Per esempio in Sudafrica è iniziato un processo, e quindi c'è la possibilità che alcuni ufficiali israeliani, se vanno in Sudafrica, vengono arrestati. È una possibilità perché il processo in Sudafrica è andato avanti parecchio. E quindi continueremo a cercare giustizia in tutti i modi che possiamo, con l'azione legale, con i media, con il supporto internazionale. Ora, io ovviamente non lo so quale sarà la risposta del procuratore alla Corte dell'AIA. Per quanto riguarda me, io quello che farò è cercare di aumentare la consapevolezza delle persone e sperare per il meglio, essere ottimista. Se hai in mente di produrre altri documentari

niente, con l'idea di lasciarmi un po' andare a questo progetto, perché per una volta non avevo un produttore che mi seguiva e che mi imponeva delle cose, perché ho detto un po' vediamo cosa ne viene fuori. Poi man mano ha preso forma questa storia, ho capito che c'erano tanti argomenti di cui potevo trattare raccontando queste persone, argomenti secondo me molto attuali, in primis il desiderio di fare le cose che ci piacciono nella vita, come ancora questa cosa, e se questa cosa è ancora possibile, queste donne lo fanno a costo, diciamo, di grandi sacrifici, perché poi sono persone che lavorano, devono fare altre cose per forza, però insomma diciamo che hanno questa, siccome quello che fanno è molto importante per loro, è la loro linfa vitale, da lì che viene il titolo del film, praticamente ho scoperto che loro erano le persone che mi interessavano, perché ammiravo questo fatto che loro facessero quello che fanno nonostante le difficoltà, perché è una cosa che accade anche a me, nel senso che io faccio la regista, mi faccio i miei film, spesso sono costretta a fare le cose da sola, certe volte mi deprimo, invece vedo che comunque vale sempre la pena, perché è la cosa che appunto mi tiene in vita, che mi piace di più fare. Sì, e sì. Mi sono anche appunto identificata in queste persone. Poi ovviamente questo è stato uno dei motori della storia, si sono aggiunti altri argomenti di cui mi interessava parlare, che sono questioni legate alla libertà di essere quello che vogliamo, se siamo donne, cioè non essere per forza legate a degli stereotipi femminili di madri, mogli, cioè queste sono donne che possono fare anche quello, ma provano a fare dei mestieri che non sono i soliti mestieri delle donne, cercano di, insomma, di fare delle cose che di solito ci sono meno donne che le fanno. Questo mi sembrava importante raccontarlo, no? Per raccontare donne anche fuori dagli soliti stereotipi. No, poi anche sullo stereotipo del femminile possiamo anche entrare anche in quell'argomento lì, perché una di queste donne è una trans, per cui c'ha anche lei qualcosa da raccontare. Sì. Oh, per dedicarci un documentario immagino che sia una scena folta e vivace. La scena è folta e vivace e molto. Quindi c'è una vitalità e a dare anche uno sguardo, diciamo, diverso su quello che è il mondo attraverso l'arte, che io ho molto apprezzato, perché Roma per tanti versi sembra un po' ferma, no? Invece proprio ho sentito quell'aria che tante volte della storia, cioè dell'umanità, ci è capitato di sentire o l'abbiamo sentita raccontare, in cui un gruppo di persone, che sono quelle che poi fanno la controcultura in un paese, cercano di portare qualcosa di diverso, uno sguardo diverso che può anche cambiare delle cose. Questo anche secondo me era interessante raccontare. Quante sono state le tue interlocutrici? Sono 11, 6 di loro fanno parte di gruppi, cioè 2 a 2. E alla fine sono venute fuori tante musiciste, tante compositrici, più di altre, anche se poi la scena, diciamo, artistica femminile del Pigneto è molto più ampia. Però io appunto, seguendo le tracce, una che mi portava all'altra, ho limitato a canzoni che sono per limitare, anche perché, come puoi immaginare, lavorando da sola ne cominciamo a fare tutte, però insomma, ho seguito questo gruppo che si conoscono, che sono anche solidali l'una con l'altra, che vanno a vedere gli spettacoli l'una con l'altra, e questo anche mi sembrava interessante per raccontare appunto donne che non seguono un altro stereotipo, che è quello che delle donne che non sanno fare gruppo. Non ne sanno fare gruppo, non è che cioè, non è una situazione, diciamo, idiliaca, però c'è solidarietà, rispetto, c'è interesse le cose l'una dell'altra, per cui questo mi sembra già un'altra cosa importante che viene fuori dal film, ecco. Carlotta, incidono e dove si esibiscono? Guarda, loro hanno tutte quelle che incidono per etichette indipendenti, e tutto, poi capito, un giro che è molto lì al Pigneto. Soltanto alcune, diciamo, calcano dei palcoscenici più importanti, per esempio Silvia Calderoni, che è anche una sorta di voce narrante del film. Conosciamo bene, sì. I Motus, e diciamo i Motus sono una compagnia teatrale affermata, per cui loro sono, è la più conosciuta di tutto questo gruppo, però in realtà anche tutte le altre, magari noi non lo sappiamo, vengono invitate spesso all'estero, vanno a suonare a Berlino come Maria Violenza, Di Maro, Lola Cola con Ugo Sanchez, che sono un duo, diciamo, che si esibiscono regolarmente a Fanfulla, però vengono anche molto chiamati fuori, cioè, e fanno secondo me delle cose molto interessanti. Purtroppo tanta gente non lo sa, loro dicono meno male, perché in realtà non hanno questo desiderio di diventare mainstream proprio perché sono underground, però così è. Ho visto che c'è una bella locandina del documentario. La locandina, sì, mi piace molto anche a me. L'ha fatta un illustratore del Pigneto proprio, anzi più che del Pigneto, comunque di quella zona lì, la chiamiamo Roma Est, ma va, si espande. Certo. Che si chiama Stefano Centonze, in arte Onze, che è un bravissimo illustratore che in qualche modo ha partecipato al film perché conosce tutte le protagoniste, e allora gli ho detto: perché non me la fai te? Sono molto felice che me l'abbia fatta così bella. Che succederà? Siccome me lo chiedono, e ormai ci sono anche tante sale che fanno un'attività più indipendente, e pian piano tireremo. Ecco, questa è una cosa secondo me bella, poi lo sto facendo vedere, insomma, diciamo che ha avuto questo successo molto forte alla Festa del Cinema di Roma, che mi ha invogliato a continuare a diffonderlo. Sto lavorando. Senti, ci lasci a questo proposito tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, beh, c'è una pagina che si chiama Linfa il Film su Facebook, c'è un sito linfadoc/wordpress.it, però diciamo la pagina su Facebook è quella più attiva. Un saluto e un ringraziamento alla regista Carlotta Cerquetti. Carlotta, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te. Grazie a tutti quanti, a presto. La regista Carlotta Cerquetti sul suo documentario Linfa, presentato a Roma all'Indaco Fest a Largo Venue venerdì 15 novembre 2019. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.